9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio. Oscar Giannino vi dirà solo poche parole iniziali per non perderci naturalmente nella complessità dei riferimenti. Quando si trattano le questioni energetiche bisogna stare molto attenti alla precisione dei termini, delle fonti, dei numeri, dell'identificazione di che cosa davvero si parla, perché è molto facile confondere innanzitutto chi ci ascolta o chi ci legge, ed è molto facile dire che naturalmente il punto di vista dell'interlocutore è gravato da dati inattendibili, da calcoli malfatti. Insomma, è il classico esempio, l'energia, come molti altri aspetti delle questioni economiche, in cui spesso l'irriducibilità dei punti di vista a confronto si appella all'impossibilità di avere un linguaggio matematico condiviso per descrivere la realtà. E quindi io intanto metto le mani avanti per chi ci ascolta, perché immagino che puntualmente, come spesso avviene quando si tratta di questioni energetiche, ci imbatteremo in questo problema. Ma oggi vogliamo focalizzare la vostra attenzione, la nostra attenzione, sulla questione delle energie rinnovabili, cioè quelle da fonti in teoria, anzi in pratica, considerate non esauribili, a differenza dei combustibili fossili. E alcune domande concrete da farci è: che cosa bisogna concretamente attendersi in termini di contributo da queste fonti per la soddisfazione del fabbisogno di energia primaria e di energia elettrica? Ricordo che il fabbisogno di energia primaria è quello che riguarda sia l'energia rivolta alla produzione di energia elettrica, sia quella rivolta alla produzione di calore nelle nostre case, sia quella invece rivolta poi a risolvere il problema della autotrazione dei veicoli, quindi è il comparto più ampio, no, della domanda di energia. Seconda questione: quanto siamo disposti a spendere per queste cose? Perché i loro costi e i termini di efficienza comparata rispetto all'energia prodotta dai combustibili fossili è molto elevata. Io ricordo che già da molti anni noi paghiamo quasi il 6% della nostra bolletta come consumatori, in teoria per consentire l'abbassamento dei prezzi rispetto a quelli di produzione delle fonti rinnovabili, e quindi una cifra che va, se consideriamo l'aggregato più stretto ogni anno, è già superiore a 1,7 miliardi di euro in Italia l'anno, ma in realtà sono più di 3 miliardi di euro nell'aggregato più ampio. E questa cifra, ci ha appena detto nella sua relazione due mesi fa il Presidente dell'Autorità dell'Energia, è destinata a crescere fino a 7 miliardi di euro l'anno, di qui al 2020, ogni anno. Quindi innanzitutto ci costano molto. Vale davvero la pena farle costare così tanto? In cambio di che cosa? Prima domanda. Seconda domanda: siamo davvero così convinti che il nostro paese sia il più ricettivo per le energie rinnovabili? Faccio alcuni esempi dei critici, io me lo pongo criticamente questo tipo di problema. C'è chi dice, per esempio, fa notare con alcuni conti che sicuramente, ripeto, verranno oggi contrastati dagli esperti che vi abbiamo chiesto di ascoltare, che andrò ora a presentarvi, ma c'è chi per esempio propone alcuni esempi un po' paradossali. Per esempio, per ottenere dalle rinnovabili il 10% del fabbisogno nazionale di elettricità, c'è chi fa questo conto ricorrendo alle biomasse, cioè insomma legna da ardere, bisognerebbe disporre di 120.000 km quadrati di boschi, e in Italia ce n'è meno di un terzo. Oppure bisognerebbe, pensando al fotovoltaico, installare 200 km quadrati di pannelli, con un costo che sarebbe oggi sui 250 miliardi di euro. Oppure, pensando all'eolico, bisognerebbe installare almeno 24.000 turbine da 1 megawatt, e questo significherebbe 2.000 km quadrati coperti. Insomma, ripeto, sulle rinnovabili come sul nucleare i numeri sono numeri a volte molto contestati, e quindi passo a presentarvi gli ospiti, ai quali demanderò il compito di confrontarsi ai vostri occhi con credibili prospettive su cosa aspettarci da questo, se è vero che c'è una rivoluzione della green economy in corso, quanto siamo disposti a pagare e quanto bisogna essere ragionevolmente disposti a credere che questi apporti energetici siano non solo utili per eliminare o contenere le emissioni, ma siano anche economicamente convenienti. Ecco, allora abbiamo con noi, e li ringrazio per questo, Davide Tabarelli, il presidente di Nomisma Energia. Buongiorno Tabarelli. Poi Carlo Durante, che è l'amministratore delegato di Maestrale Green Energy e consigliere dell'Associazione Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili, APER. Buongiorno Durante. Buongiorno. Poi abbiamo Ugo Spezia, che è il segretario dell'Associazione Italiana Nucleare. Buongiorno Spezia. Buongiorno. E Simone Togni, che è il segretario generale dell'ANEV, l'Associazione Nazionale Energia del Vento. Buongiorno Togni. Buongiorno. Ecco, Tabarelli, a me sono concesso che io stesso non abbia detto alcune sciocchezze nei due minuti di introduzione. Su, come introduzione generale, contributo da attendersi dalle rinnovabili, quanto è giusto pagare in più di incentivi ogni anno e in cambio di che cosa? Ci dice la sua inquadratura generale della questione? Ma innanzitutto le rinnovabili sono un obiettivo globale, dalla Cina agli Stati Uniti, all'Europa, all'Italia, non da adesso ma da oltre 30 anni, da noi da 30 anni, dalla famosa, cioè non famosa, 308 dell'82, il piano energetico dell'81. E si sta cercando di fare qualcosa, le percentuali però sono indiscutibili, ecco, siamo intorno, sto guardando la direttiva del 28/2009 sulle rinnovabili, l'Italia ha una quota di produzione rinnovabile sui consumi totali di energia, non solo di elettricità, del 5,2%, e l'obiettivo è di portarlo al 17% nel 2020. Esiste il 20% di obiettivo al 2020 dell'intera Europa all'interno di quel pacchetto 20-20-20 e partiamo da un 8%. Naturalmente in quella quota attuale il più è fatto dall'idroelettrico. Esatto, cioè il grande, e ci abbiamo messo quasi un secolo per raggiungere questa quota, che da noi 5, quest'anno sarà anche 8%, e nel resto d'Europa intorno al 9%, è dovuta soprattutto per il 90% ai grandi laghi dell'arco alpino, delle altre zone, che sono giganteschi, che hanno un impatto devastante, o comunque molto bello per chi piace i laghi, sull'arco alpino, ma che adesso sarebbero irrealizzabili. Si tratta di uno sforzo su cui si è impegnata l'Europa, ma anche Obama la scorsa settimana ha stanziato 2,3 miliardi di dollari, straordinario. Ecco, quello che è certo è che esiste uno squilibrio fra aspettative e, credo io, quello che si potrà effettivamente fare. Circa gli incentivi, che ha dato lei delle indicazioni di costo, i 2,3-4 miliardi, l'autorità che ha detto che andremo su di parecchio, tutto vero, perciò detto così è una cifra grandissima. Se vogliamo sminuirla, comunque ridimensionarla, ricordiamoci che da noi la spesa per l'energia è di circa 200 miliardi di euro all'anno complessivamente, perciò noi, se andiamo a chiedere a un consumatore: sei disposto ad aumentare la quota, che ne so, sulla bolletta elettrica dal 3 o al 3,5-4% per salvare il pianeta? Ovviamente tendenzialmente risponde di sì. Poi c'è da dire che però noi abbiamo le bollette elettriche più care del resto d'Europa, e questi incentivi, che sono molto disordinati fra l'altro da noi, ma molto molto alti, vanno ad accrescere questo distacco rispetto a paesi dove c'è il nucleare come la Francia. E anche molto discutibili, nel senso che ci sono meccanismi storicamente concepiti come ripiano o contributo all'abbattimento del costo al consumatore delle energie rinnovabili, come il CIP 6, che sono in realtà dei meccanismi, mi prendo io la responsabilità di bollare così, concepiti per associare i produttori concorrenti dell'ex monopolista a meccanismi collusivi in comune per diminuire sull'ex monopolista, sull'incumbent, come si dice in termine tecnico, gli effetti di concorrenza, associando tutti a meccanismi di incentivo di pseudo rinnovabili. E col CIP 6 ce lo portiamo avanti da molti anni, ogni volta la politica ci promette che lo abolirà, poi non ci si riesce mai a vederlo concretamente abolito, perché naturalmente le imprese poi sono abituate ad avere un orizzonte di lungo periodo per i propri investimenti, fanno conto sul CIP 6, quando si tratta di dire lo aboliamo il ministro dice sempre beh sì, però aspettiamo qualche annetto ancora, e intanto, come dice il film, io pago. Allora Durante, consigliere dell'associazione produttore energia da fonti rinnovabili, ci aspettiamo ovviamente una difesa, però non d'ufficio, rispetto a quello che ha detto Tabarelli, cioè stiamo un po' concreti su quanto attenderci e abbiamo già una bolletta che costa molto, lei che dice? Ma dunque, Non credo nel breve termine che le rinnovabili potranno risolvere il problema energetico del mondo o dell'Italia o dell'Europa, a seconda dei livelli a cui lo vogliamo guardare. Sono molto più propenso a pensare che però le rinnovabili siano un nuovo modo di pensare all'infrastruttura energetica. Che cosa voglio dire? L'infrastruttura energetica storicamente è stata grandi impianti centralizzati lungo la rete che poi trasmette e alla fine distribuisce fino alle nostre case l'energia elettrica. Parlo di energia elettrica, poi però passo anche al resto dell'energia. L'energia elettrica può essere concepita in un modo completamente diverso, cioè decentrato. Allora, il vero futuro del mondo, per arrivare a tutte quelle aree dove oggi non è possibile servire energia elettrica, o comunque in tutte quelle aree che sono povere di altre risorse, è effettivamente dotarle di impianti flessibilissimi, anche piccolissimi, microimpianti. Allora, un impianto fotovoltaico da qualche kilowatt lo puoi mettere dove vuoi e non hai bisogno di una rete di distribuzione, perché genera per quelle ore della giornata l'energia elettrica di cui ha bisogno, basta, finito. Esattamente identico un impianto eolico, un micro o un mini idro, eccetera. Quindi la prima cosa è la enorme possibilità di sovvertire un ordine globale dell'energia elettrica che passa da centralizzato a decentrato, quindi sostanzialmente da pochi grandi impianti a tanti piccoli impianti dispersi dove li vogliamo. Questo naturalmente potrebbe avere anche degli impatti di geopolitica, di servizio in aree strutturalmente, tradizionalmente molto povere, pensiamo immediatamente all'Africa o altri paesi ancora delle nuove economie o delle economie ancora non emerse. Questo evidentemente è chiarissimo come esempio, però tornando a casa nostra c'è l'altro grande aspetto di immaginare che per non andare lontano, il sole evidentemente c'è solo di giorno. Di giorno l'energia elettrica è un'energia elettrica estremamente costosa, estremamente pregiata. È chiaro che non posso confrontare il costo medio dell'energia elettrica del mondo con il costo dell'energia nelle ore di picco. In quelle ore di picco il fotovoltaico deve tendere ad avere un costo inferiore a quello che l'impianto tradizionale ha. È chiaro che questo non lo posso fare se non diffondo l'industria. L'industria oggi è fatta di pochissimi produttori di tecnologia, di pannelli fondamentalmente, ma anche le altre tecnologie di supporto al pannello stesso devono migliorare. Se non incentivo la loro diffusione non ottengo un effetto che tecnicamente si chiama grid parity, ma insomma più in vulgaris sostanzialmente è il costo identico a quello delle altre fonti energetiche. Questo in qualunque settore si sia storicamente sviluppato nel mondo lo fai attraverso gli incentivi. La struttura in Italia è duplice e come consigliere dell'associazione mi prendo questa volta io, come ha fatto lei prima, la responsabilità di dire una cosa. È chiaro che l'incentivo non deve stare e permanere per sempre. Deve progressivamente ridursi all'ottimizzazione del costo strutturale di quella fonte energetica che tentiamo di diffondere. Quindi sostanzialmente deve incentivare che cosa? Deve incentivare il miglioramento dell'efficienza di quella fonte. Per il fotovoltaico questo sta effettivamente accadendo. Per l'eolico è già accaduto e adesso la curva, diciamo, di ottimizzazione del costo deve assestarsi, quello che deve permanere poi è un'efficienza di tutti gli altri sistemi che non sono strettamente nella turbina eolica, che è quella che si veda, ma quello che rimane intorno. Parliamo un istante della tariffa, è chiaro che la tariffa in Italia è molto elevata, il che crea un effetto di rigetto, perché la gente poi alla fine, da un lato quelli che pagano la bolletta al centro di Milano e al centro di Roma, che non hanno direttamente visibile un parco eolico fotovoltaico, si chiedono come mai pagano di più e non capiscono, perché non vedono l'utilità pratica. Dall'altro lato quelli che poi nel paesello devono ospitare il parco eolico, che è tipicamente oggetto di grandi rigetti, il parco eolico lo vedo come il mostro dello speculatore. Allora la tariffa incentivata così elevata ha creato una distorsione del consenso, ma è originata a sua volta da una distorsione amministrativa, e qui concludo: il vero problema per arrivare a un abbattimento sensibile del costo sociale delle rinnovabili è semplificare molto i procedimenti amministrativi. E così questo credo che poi si possa essere d'accordo, a prescindere, come diceva Totò, di come la si pensi, su quanto lungo deve essere l'incentivo in vista di un costo al consumo e di generazione industriale di questi tipi di energie che sia compatibile con un quadro di sviluppo, non di incentivi a vita perché ci piacciono di più filosoficamente, per così dire. Ecco, una domanda per Togni. C'è chi dice che l'eolico, in alcune parti d'Italia, per esempio la Puglia, la Sardegna, insomma, i generatori, le generazioni anche di grandi dimensioni eolici, iniziano a fare parte del panorama italiano, però il dibattito poi quando si tratta di ampliare è molto forte. Di sicuro noi non abbiamo territorialmente la stessa disponibilità che alcuni paesi come la Spagna, per esempio, hanno espresso in questi anni. Basta fare un paragone spostandosi al centro della Spagna rispetto ai parchi eolici italiani, che esistono ma sono molto più ridotti, per capire di che cosa cosa stiamo parlando. Ma al di là di questo, le faccio una domanda un po' provocatoria. Cioè, c'è chi nota che con due centrali nucleari del tipo EPR, quelle che adesso con i francesi stiamo studiando insieme, da 1,6 gigawatt, si produrrebbero in Italia più o meno la stessa energia elettrica di ben 4.000 generatori eolici, ciascuno di 90 metri di diametro, ciascuno su una torre da 100 metri, e lo spazio sarebbe di meno di due campi di calcio, mentre in quel caso per tutti questi generatori ci vorrebbero un bel po' di chilometri quadrati, ma parecchi davvero di territorio. È un'impostazione un po' troppo provocatoria, lei che dice, Togni? Ma, no, assolutamente. Io, ritornando al discorso iniziale suo, sono dell'idea che non si possano fornire dei dati in maniera a prescindere. I dati sono dati e credo che debbano essere valutati come tali. Pertanto, in termini di paragone della produzione energetica, evidentemente un impianto elettronucleare può fornire energia elettrica pari a un certo numero di impianti eolici. Per quanto riguarda l'occupazione territoriale, è evidente che si possono fare vari tipi di raffronto. Il termine esatto per raffrontare è quello che è l'occupazione territoriale effettiva, e se si va a verificare quello che sarebbe se noi facessimo quello che ha fatto la Spagna, in Italia occuperemmo un territorio fisicamente italiano pari a 2,47 km quadrati. Questo è il dato reale, poi io sono dell'idea che non si possa sempre parlare, cioè non ci siano dei numeri che si possono essere forniti a prescindere. I dati sono dati e devono essere rispettati. Certo che il motivo e la scelta energetica di una politica di un paese come il nostro deve essere individuata in maniera chiara. Se si vuol fare lo sviluppo delle fonti rinnovabili, e lo si fa non tanto per una scelta, anzi direi quasi non esclusivamente per una scelta ambientalista, ma per una scelta di indipendenza energetica, aumentare quello che è la risorsa rinnovabile e quindi diminuire la bilancia commerciale del nostro paese rispetto alle importazioni di fonti fossili, e per venire incontro a quelle che sono le istanze e gli obiettivi in termini di produzione elettrica da fonti rinnovabili, che, vorrei ricordarlo, comporteranno e stanno già comportando da quest'anno per il nostro paese molti e molti miliardi di penalità da qua al 2012 che dovranno essere pagate. Anche questo aspetto da un punto di vista economico deve essere fatto considerato quando si fa un calcolo del beneficio dello sviluppo delle fonti rinnovabili. E vorrei anche segnalare che le nuove rinnovabili, cioè quelle non riferite al grande idroelettrico, che peraltro non stigmatizzerei dicendo che è brutto o quant'altro, è una fonte idroelettrica, già oggi hanno avuto un incremento negli ultimi 5 anni, 6 anni molto molto importante, arrivando a essere circa il 50% della produzione complessiva. Quindi non è vero che il vecchio idroelettrico è il 90%, è circa il 60% della produzione da fonte rinnovabile nel nostro paese. Ecco, primo esempio di come sulle cifre si possa ballare. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando oggi del contributo, del prezzo, della convenienza e delle conseguenze sull'economia in termini di occupazioni delle energie rinnovabili. Intanto cominciamo con alcune domande di voi ascoltatori, cominciamo da Matteo, da Vicenza. Prego Matteo. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Prego. Io mi chiedo come mai a me, al privato, grosso modo, un kilowatt di corrente, di pannelli fotovoltaici costa sugli 8.000 euro circa. È un importo notevole. Io ho fatto tre ipotesi: o i costi della ricerca, ma sono tanti anni che ci sono, ormai dovrebbero essere stati ammortizzati, o si usano materiali nobili, oro, palladio, iridio, che ne so, oppure ci vuole molta energia per fabbricarli, come per esempio nel caso dell'alluminio, che è abbondantissimo in natura ma costa molto perché si raffina per via elettrochimica. Allora, il bilancio energetico dei pannelli fotovoltaici è positivo, e di quanto, se è positivo? Cioè, non è che spendo che bucio tre bidoni di petrolio per fabbricare un pannello fotovoltaico che alla fine della vita mi darà corrente che sarebbe stata prodotta da 3,5 bidoni di petrolio? Grazie Matteo della domanda. Sappiamo che in Europa c'è chi, come la Germania, ha incentivato molto il fotovoltaico, creando poi non solo una posizione di preminenza tecnologica in tutta Europa, ripeto, siamo debitori alla Germania, questo è uno dei motivi per cui poi paghiamo cari i pannelli, ma creando anche molti occupati, un settore intero dell'economia, sono circa 240-260.000 gli occupati sul solo fotovoltaico realizzato tramite gli incentivi in Germania. Ma porremo ai nostri ospiti la domanda su perché sia così caro. Vediamo che cosa ci chiede poi Edoardo da Parma. Prego Edoardo. Buongiorno. Io volevo diciamo focalizzare su due punti. Il primo è quello dell'essere indipendenti per quanto riguarda i combustibili fossili da quelli che sono i paesi produttori, quindi noi dobbiamo sviluppare energie alternative anche per essere un pochettino più indipendenti, anche perché sia combustibili fossili che lo stesso uranio non sono sul territorio nazionale ma sono prodotti solo in alcune nazioni. E poi il nuovo ambasciatore americano in Italia, la troverete oggi sulle prime pagine dei giornali come Corriere della Sera, tra le prime preoccupazioni che ha espresso prima ancora di iniziare la sua missione ufficiale, l'accredito in Italia, ha dichiarato l'Italia dipende troppo dalle energie dei paesi importatori, naturalmente l'allusione alla Russia e al gas, e quindi la conferma che nella politica estera italiana quello di cui sta parlando Edoardo è una incognita non poco importante. Poi diceva ancora... E l'altro punto è sul costo pieno, nel senso che non possiamo valutare solo il costo del combustibile e della produzione di energia da combustibile fossile, ma anche quello che è il costo pieno, quello che io chiamo pieno, che è il costo dell'impatto ambientale, il costo anche sulla salute. Quindi a lungo termine questi sono costi che devono essere tenuti in considerazione, quindi il confronto va fatto tra costo dell'energia alternativa e costo pieno della produzione tradizionale. Chiarissimo, è come se dire al nucleare arriveremo a questo, naturalmente non ci fate solo il conto di quanto costa realizzare l'impianto in sicurezza e il prezzo dell'uranio, ma metteteci dentro la piena funzione di decommissioning, del trattamento delle scorie e dell'impianto e così via. Ancora Andrea nella provincia di Genova e poi torniamo ai nostri ospiti. Prego Andrea. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Prego, dica. Io ho una posizione un po' diversa dai miei precedenti interlocutori, in quanto io sono un player, cioè un manager di società che stanno investendo nelle energie rinnovabili. Noi abbiamo individuato delle aree al confine dell'Appennino Toscano-Emiliano sia per l'eolico che per le biomasse. Per quanto riguarda il fotovoltaico ci siamo un attimo fermati perché la rarefazione del sole in quelle zone non era, diciamo così, da portare a un investimento ottimale. Notiamo che c'è molta, diciamo così, abbiamo molte difficoltà, non tanto quando presentiamo i progetti in termini di investimento e di realizzazione di resa nei 20 anni e anche soprattutto per i posti di lavoro che andiamo a creare, ma chiediamo alle categorie, diciamo, importanti che gestiscono queste situazioni come le categorie politiche di darci una mano a creare un filone di comunicazione. C'è molta confusione praticamente, noi proviamo tra le varie amministrazioni comunali molte divergenze e molta confusione, e questo determina comunque oggi una grossa riduzione dei posti di lavoro in zone che già sono represse da questo punto di vista. Grazie Andrea, io la devo interrompere. Si è capito chiaramente qual è l'appello per una maggiore chiarezza, comprensione, trasparenza e anche coordinamento per iniziative imprenditoriali della Green Economy. Io naturalmente sono ben lungi dal voler mancare rispetto alla sua iniziativa, a quella di tantissime imprese che concorrono a questo settore. Mi si lasci dire però da esperto esterno che la Green Economy è, come tutti i fenomeni quando si affermano non solo per moda, la moda economicamente è una grande corsa di molti soggetti economici che vedono che c'è una cosa sicura, c'è l'incentivo da realizzare e c'è una svolta tecnologica e organizzativa in campo, quindi non voglio dire mancando di rispetto, ma come sempre quando si verificano questi fenomeni, in questi fenomeni c'è una grande corsa di soggetti che spesso hanno meno titoli di altri, sono meno preparati di altri e che tentano semplicemente di cavalcare quest'onda. Credo che la Green Economy in Italia sia fatta in molti casi anche di attori di questo tipo, non voglio dare giudizi ma è così, come avvenne con la .com e così via. Allora, prima di arrivare alla risposta di chi è convinto del nucleare, cioè Spezia Tabarelli, proviamo a dare un po' di queste risposte ai nostri ascoltatori. Ma dunque dunque, circa la prima domanda del ciclo di vita dei pannelli fotovoltaici, esiste un problema, ma esiste un problema anche per tutti gli impianti industriali e anche per quelli energetici, stabilire quanta energia è contenuta nell'impianto. Ecco, alla fine della vita di questi pannelli si dovrà disporre dell'impianto, perciò c'è un po' di problema, ma tuttavia rimane sempre la convenienza, così sotto il profilo ambientale non viene discussa al di là del costo, cioè si risparmiano molte emissioni di CO2, perché ricordiamoci, stiamo parlando di rinnovabili, del tentativo di catturare la forma di energia più abbondante nel nostro vicino universo, che è quella del Sole, che è stata catturata tanti anni fa e concentrata dai fossili e che adesso noi stiamo cercando di replicare con queste tecnologie, cosa che è difficile ma ci si dovrebbe riuscire. Secondo ascoltatore dice i costi, dobbiamo tenere tutti conto di tutti i costi quando facciamo il confronto tra le varie forme di fonti, è vero. Il problema è che questa esternalità, cioè l'inquinamento, la CO2, il clima e poi le cose positive tipo il sostegno all'economia, le importazioni che fra l'altro adesso arrivano tutte dalla Cina di questi pannelli o da qualche altro paese, ecco, è estremamente difficile, è un problema di contabilità, è un problema dell'economia quello di contabilizzare l'esternalità. Di fatto il sistema economico attuale contabilizza solo le fatture, cioè i costi effettivamente sostenuti. Circa l'ultimo intervento, quello della burocrazia, ecco, questo abbiamo notato nell'esperienza degli ultimi 30 anni, che le difficoltà burocratiche, ad esempio adesso per il fotovoltaico gli allacciamenti alle reti, ma anche l'eolico, sono la principale ostacolo, la principale barriera a un maggiore sviluppo. La Germania è al primo posto nel mondo, non solo perché dà buoni incentivi che sono un po' più bassi dei nostri, ma soprattutto perché è un paese efficiente, come dico io in maniera un po' scherzosa, è una Wehrmacht dell'energia, cioè loro sono burocraticamente efficienti e perciò la gente sa dove andare a chiedere, perché le rinnovabili sono disperse, sono migliaia di piccoli impianti, l'eolico è già grande, ma noi in Italia che facciamo 400 adesso megawatt di fotovoltaico abbiamo più di 60.000 piccoli impianti, ecco, gestire tutta questa complessità è estremamente difficile. Capisco gli imprenditori che vogliono entrare e poi dopo non sanno neanche quanto dureranno gli attuali incentivi, noi abbiamo introdotto un sistema di certificati verdi che dovrebbe dare un incentivo in base a dei meccanismi di mercato, sperando che il mercato funzionasse, di fatto poi questi certificati verdi hanno dei prezzi fissati per legge. Insomma, una estrema complessità. Circa il punto che mi è stato contestato prima, il 90% dell'idroelettrico effettivamente un po' alto, però le statistiche ufficiali attualmente l'anno scorso sono dell'idroelettrico, il 71% nel nostro paese, in Europa più o meno è questa quota, se però escludiamo rifiuti, biomasse, che insomma è il geotermico vecchio, ecco, arriviamo a delle cifre molto più alte. Soltanto l'eolico e il fotovoltaico, che sono quelle nuove, che sono quelle che hanno avuto il boom, in Italia attualmente contano per l'8%. Esattamente, sono abbastanza, mi pare che queste cifre di tabarelle siano abbastanza incontestabili, se mi si permette di fare il conduttore che dà un occhio alle cifre di tutto. E veniamo al punto di vista adesso di chi invece dice tutto questo, mettiamoci un bel po' di nucleare, l'Italia l'ha appena fatto, ha fatto una scelta in termini di provvedimenti politici, devo dare la parola all'ingegner Spezia, devo dire che molti degli ascoltatori ci hanno già mandato i messaggi, ma cosa c'entra parlare di nucleare visto che stiamo parlando di rinnovabili, ma perché bisogna difendere il nucleare quando invece bisogna puntare sulle rinnovabili? Quindi sappia che ha un po' di ascoltatori critici in questo momento, ma lei è abituato a difendere il nucleare? Beh, sì, almeno negli ultimi 20 e passa anni siamo abituati ad avere un uditorio abbastanza ostile, insomma. E la cosa succede quasi esclusivamente, ma soprattutto in Italia, insomma. Perché? Perché tanti anni fa, all'inizio degli anni 80, abbiamo cominciato a fare delle riflessioni, così come ricordava lo stesso Tabarelli. Abbiamo cominciato a fare delle riflessioni a livello di pianificazione energetica in questo paese, a partire dalla fine degli anni 70, inizio anni 80, abbiamo cominciato a dotarci di quelli che sembravano essere degli strumenti di pianificazione del sistema energetico indispensabili, che avrebbero dovuto portare poi il paese a dotarsi di un sistema energetico e all'interno del sistema energetico di un sistema elettrico, diciamo così, gestito, correttamente gestito dal punto di vista tecnico-economico. Poi è successo quello che è successo e ci siamo dimenticati completamente di questa funzione che invece gli altri paesi si sono guardati bene da trascurare. Ora, noi siamo un paese industriale avanzato ha bisogno di un sistema energetico in grado di erogare energia in modo certo e nel modo più economico possibile e nel modo più compatibile con l'ambiente possibile. All'interno del sistema energetico il sistema elettrico ha una importanza determinante, perché ormai l'evoluzione dei consumi va verso una crescita costante dei consumi elettrici, anche se si registrano periodicamente dei rallentamenti nella crescita del consumo di energia in quanto tale, cioè in senso lato, l'energia elettrica continua ad essere richiesta e continua ad essere richiesta a ritmi sempre crescenti. Ora, quello che questo paese ha perso di vista è proprio questa necessità qui. Abbiamo un sistema produttivo, abbiamo un sistema sociale che devono essere alimentati, e devono essere alimentati, come dicevo prima, in modo economico e ambientalmente sostenibile. A partire da un certo punto è stato imposto in Italia un teorema: in Italia non si fa il nucleare, in Italia non si usa il carbone. Nucleare e carbone, che attualmente sono le fonti di produzione elettrica più economiche, che soddisfano circa il 75% del fabbisogno di energia elettrica dei paesi industriali avanzati, in Italia ce le siamo dimenticate a metà degli anni 80. È partito poi un secondo teorema, che in luogo dell'energia nucleare e del carbone si poteva invece investire sulle fonti rinnovabili, che all'epoca erano chiamate fonti alternative, ricordo anche questa cosa, senza poter essere alternative per questioni di carattere termodinamico, se non altro. Comunque è partito quest'altro teorema: il paese avrebbe potuto soddisfare il proprio fabbisogno energetico ed elettrico in particolare puntando sulle fonti rinnovabili. In questi 25 anni abbiamo speso oltre 60 miliardi di euro sotto forma di incentivazione delle fonti rinnovabili, all'epoca definite alternative. Oggi il risultato è che questo paese paga le tariffe elettriche più care del mondo industriale, ha una produzione elettrica basata sulle fonti più costose, che sono il gas e il petrolio, si sta faticosamente recuperando un po' di carbone, un po' di uso di carbone, e così come ha ricordato recentemente il Presidente dell'Autorità dell'Energia Elettrica e il Gas, paghiamo praticamente circa 3 miliardi di euro all'anno di incentivazione di fonti che poi, in termini reali, portano un contributo alla copertura del fabbisogno energetico in generale ed elettrico in particolare, che non va oltre l'1 o il 2%. E per quest'ultima parte, sempre sul contributo da attendersi per i costi da pagare per lo sviluppo delle energie rinnovabili, ancora due domande dagli ascoltatori. Cominciamo con Livio di provincia di Milano. Livio, prego. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo mettere l'accento su una discriminazione, direi, che nella quale mi ritrovo dopo aver investito nel 2007 nelle fonti rinnovabili biomasse, sì, olio vegetale. Investimento che nel caso nostro, mio, doveva far leva su una ristrutturazione aziendale che è in atto, sempre per competere contro una Cina maledetta che ci sta, come nei settori citati, tessili e calzature, mettendo a terra, quindi in particolare un produttore. E tra queste leve di risparmio, una importante era la bolletta energetica. Quindi facciamo questo investimento nel 2007, certificati verdi alla fine del 2007, novembre 2007. Dopodiché salta il prezzo dell'olio, salta dell'olio vegetale utile, cioè carburante di questi due motori, 1 megawatt la centrale di questo. Sì. Ci siamo dotati, ma soprattutto saltano quello che sono i ricavi possibili o quelli che erano i ricavi sperati dei certificati verdi, che da 134 euro megawatt passano a 80 euro megawatt circa, e addirittura non c'è la possibilità di scambio, quindi in una borsa, in un borsino ristretto che settimanalmente è disponibile agli operatori come di produttori di energia come noi. Chiarissimo l'esempio. Se non ha altro da aggiungere, il meccanismo che lei ha descritto, cioè l'aleatorietà degli effetti per un'impresa che, dovendosi ristrutturare e tagliare i costi, identifica nell'autoproduzione di energia attraverso fonte di rinnovabile una fonte certa, perché ci sono gli incentivi, e poi scopre che invece i certificati verdi hanno una borsa che funziona poco e sono naturalmente soggetti a variazioni di valore marginale nel tempo. Secondo, scopre naturalmente che le condizioni a cui ha fatto l'investimento, il piano industriale, mutano al mutare sensibile intanto dall'ambiente circostante degli prezzi energetici. quelli magari di combustibile fossile di riferimento. E queste sono le incertezze, questa è la mia opinione secca. Molto interessante questa chiamata, perché fa capire che la svolta verso la green economy non è una svolta che possa prescindere da quello che succede nel variare dei prezzi, e stiamo parlando di prezzi di combustibili fossili che hanno fatto variazioni superiori al 100% nel giro di 8-10 mesi. Alessandro da Napoli, prego Alessandro. Salve. Sì. Cercherò di essere breve. Io rappresento una ditta napoletana che produce generatori eolici ad asse verticale. Abbiamo il brevetto della produzione qui a Napoli. Spesso noi incontriamo i nostri clienti, perché abbiamo la nostra struttura commerciale, e quello che ci capita. Quindi è una produzione di energia molto compatta, lo capisco bene? È un microgeneratore eolico ad asse verticale. Sì, sì, sì. Massimo produciamo 6 kW. Sì. Noi abbiamo fatto questo approccio proprio perché riteniamo che la green economy non sia quella che si possa sviluppare attraverso il macro generatore eolico piuttosto che il macro campo fotovoltaico, ma attraverso la diffusività. No, attraverso quello che anche per legge, diciamo, dovrebbe essere applicato, perché la finanziaria del 2008, nel gennaio del 2009, prevedeva che per ogni unità abitativa di nuova costruzione ci sia almeno un kilowatt di potenza da fonte rinnovabile installato, per capannone al di sopra dei 100 metri quadrati 5 kilowatt. Diciamo che anche la politica, grosso modo, ci è arrivata, ma non applica questa legge. Ma tutto quello che ci chiedono i clienti è: quando io riuscirò a staccarmi da quello che è il mio fornitore di energia elettrica per autoprodurmi l'energia elettrica? Non ci vuole poco a fargli capire che lui non si potrà mai staccare da chi oggi produce energia elettrica. Tutto quello che può fare oggi è attuare un circolo virtuoso attraverso il quale dalla base, dalla parte di tutti i consumatori, ci sia una reimmissione in rete di energia il più possibile che copre il 100% dei suoi consumi, per, diciamo, mitigare quello che è... Mitigare e integrare, questa mi sembra l'espressione giusta. La devo interrompere perché ci tenevo a fare una domanda a Tabarelli. Ma non è che nel bilancio mondiale del contributo alla, dello sviluppo di queste fonti rinnovabili, la tanto deprecata Cina, quello che non ha sottoscritto Kyoto, quello che ha le peggiori emissioni a intensità paritaria di energia consumata, e però è quella che ha investito un ordine di risorse 4 volte superiore a quello del presidente americano di oggi, non è che la Cina poi ci batte anche in quello, lei che dice? Ma adesso sta di fatto che la Cina è quello che inquina di più per dimensioni, semplicemente perché hanno grandi consumi energetici e avendo 1,5 miliardi di popolazione consumano molta energia, tra l'altro pro capite molto poco, e questa energia è soprattutto carbone che ha grande emissione di CO2, ma soprattutto di altri inquinanti che danneggiano la popolazione locale. Ultimamente si sono impegnati molto per le rinnovabili, ad esempio c'è l'obbligo per chi fa nuova capacità di generazione di farne almeno il 3% da fonti rinnovabili nuove. È partita la scorsa settimana l'accordo per il più grande impianto fotovoltaico con 2000 megawatt da fare in Cina nei prossimi 4-5 anni tra Sante, che è un'altra società americana. Insomma, si stanno impegnando tantissimo, hanno il parco eolico, la produzione più in forte crescita al mondo, certamente, ma questa è una questione di dimensioni, e dietro non è, c'è sì la volontà di alleggerire il carico ambientale, che ripeto è fortemente condizionato dal carbone, ma soprattutto c'è una volontà di entrare in un settore industriale a fortissima crescita, che è quello dei pannelli che fa la Santec fotovoltaici, o sono quelle le pale eoliche, che sta creando grossi problemi all'Europa e agli Stati Uniti, tanto che c'è in discussione questi giorni anche negli Stati Uniti un'ipotesi di rendere obbligatorio, quando facciamo delle rinnovabili in Europa, che queste vengono dall'Europa gli impianti. E siamo quindi per paradosso al protezionismo in uno dei settori che viene identificato come a più alto traino, oltre che a maggior utilità dello sviluppo futuro. Il protezionismo è una delle ricadute obbligate quando purtroppo la crescita economica è insoddisfacente un po' per tutti. Devo interrompere anche Tabarelli e ringraziare lui, oltre che Durante, Spezia e Togni. Speriamo di aver fidato un po' di chiarezza sul contributo possibile, come vedete non salvifico, delle rinnovabili, su quanto ci costeranno. Parecchio. Ringrazio in regia Giacomo Spunta, in redazione Alessandro Marco Tulli. Appuntamento a domani, la linea al Giornale Radio.